Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all want to know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. E buonasera, buonasera, questa è Nervature, io sono Addu, siamo e siete su Radio Wombat. Questo è lunedì 5 maggio e appunto io con Nervature oggi vi dovrei parlare di piante come al solito, ma invece sarete le mie cavie per un esperimento e mi dovrete far sapere infatti come va, come è andato. Quindi oggi non parlo, se non per questa introduzione, non vi dico niente, e invece vi faccio sentire una registrazione di un'oretta di rumori ambientali della campagna fiorentina, ovviamente. Quindi, registrazione di oggi, perciò piove, lo sapevate già, lo saprete meglio ora. E quindi era un po' così per fare un'esperienza di immersione nell'ambiente, nella natura. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate e dove lo fate. Lo fate sul pad, quindi al link direttawombat.vado.li. Però oltre a questo andate anche a spulciare il nostro sito, come sempre radiowombat.net, da cui trovate tutti i podcast di tutte le trasmissioni e un sacco di altre informazioni, contatti, news, eccetera eccetera. Io mi chiedo, direi, e vi lascio quindi a questo ascolto immersivo. Appunto, vi ripeto il link del pad direttawombat.vado.li per farmi sapere cosa ne pensate, qualsiasi cosa. Buon ascolto e ci risentiamo lunedì prossimo, sempre qui con Nervature, sempre alle 19 su Radio Wombat.